parte dura, tirar fuori il dentro, fermarsi un momento. Ma ora lo so che non si può fuggire di qui, però riderò come se fosse tutto qui. Tutto qui come se...